quattro tipi di giudizi di Dio. Il verbo giudicare, con tutte le sue molteplici sfumature, si trova centinaia di volte nella Bibbia. E non per caso. Prima di tutto perché Dio viene definito il giusto giudice, Deuteronomio 4.8. Poi perché? Di conseguenza, la Bibbia è il libro che servirà come metro di giudizio, secondo quanto Gesù ha detto. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica, la parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. GV 12.48. Questa verità troppo spesso viene offuscata o assorbita dal meraviglioso ed eterno messaggio dell'amore di Dio, contenuto sempre nella Bibbia. Ma questo per noi esseri umani non è buono. Non è buono né utile, perché qualsiasi verità, per essere tale, deve tenere presente anche la verità opposta. Altrimenti, così imperfetti come siamo, cadiamo immediatamente in un estremismo più che dannoso. E dannoso perché se pensiamo solo all'amore di Dio, siamo tentati a proseguire beatamente per la nostra strada, che ci conduce alla perdizione eterna. Se pensiamo invece solo al giudizio di Dio, rimaniamo schiacciati per terra dalla paura. E, dato che il tema dell'amore di Dio è quello che prevale nei messaggi evangelici, prendiamo in esame quattro tipi di giudizio che pendono sull'uomo, cioè quello attuale, il giudizio della Chiesa, il giudizio delle nazioni e il giudizio del trono bianco posteriore al regno millenniale. Il primo giudizio è quello che si riceve mentre si è in vita. E, opinione comune, opinione più marcata nelle persone religiose, che l'uomo viva su questa terra nei migliori dei modi, che cerchi di fare ciò che è giusto, che ognuno viva in armonia con la propria coscienza, e, poi, Dio farà ciò che è giusto e quello che gli parrà bene. Ovviamente, questa opinione nasconde in sé un'altra convinzione inespressa, cioè che Dio non può incolparmi più di tanto. Così, gli uomini vivono più o meno beatamente in Antico Testamento tesa di essere giudicati e, dato che si dà per scontata anche una soluzione, si sopporta questa attesa con lo stesso spirito di quando si attende il proprio turno nello studio affollato del dottore. Prima o poi arriverà anche il mio momento, del quale sarò capito fino in fondo. Dio chiuderà un occhio perché non ho fatto nulla di male per meritare l'inferno e per questo sarò assolto. Dunque, l'esistenza dell'uomo religioso, e non meno, è caratterizzata dall'incertezza del giudizio di condanna da parte di Dio. È poco piacevole, ma sopportabile. Purtroppo la parola di Dio, e quindi Dio stesso, dice diversamente. Si potrebbero citare decine e decine di affermazioni concordanti, ma una è valevole per tutte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta su di lui. DV 3.36. Che l'uomo sia un trasgressore non ci è bisogno di dimostrarlo. È sufficiente leggere i giornali o ascoltare la televisione per renderci conto di quanto male faccia, ma far capire alle persone che sono altrettanto colpevoli nei confronti di Dio, per una ragione forse inspiegabile meno, è molto difficile. Eppure, qualsiasi uomo, anche qui, religioso o no, non è importanza meno, è incamminato verso la perdizione e la condanna eterna. Questo, secondo la Bibbia, è un dato di fatto, niente più. Per risolvere questo suo drammatico problema è necessario e indispensabile che egli ponga una fede totale in Cristo, quale unica persona che, con la sua morte in croce, sia stata capace di riconciliarlo con Dio. Da parte di Dio il perdono è stato dato ed ora l'uomo deve solo accettarlo per fede e per grazia, cioè senza nessun merito. La salvezza è il risultato di due volontà che si incontrano. Dio ha perdonato, l'uomo deve accettare tale perdono. E a chi non lo accetta e chi continua a rimanere fermo nelle proprie opinioni sbagliate in merito all'ottenere la salvezza, non avviene nulla di nuovo. L'uomo procede nella sua folle corsa verso la perdizione e l'ira di Dio resta su di lui. Da notare che l'ira di Dio non cade sull'uomo perché non ha creduto, come se Dio si fosse offeso per non essere stato creduto, ma l'ira di Dio che albergava già sull'uomo fin dalla nascita non fa altro che restare su di lui. Perciò a nulla serve aspettare il giudizio di Dio, a nulla serve aspettare la misericordia di Dio, a nulla serve aspettare la morte, per sapere se Dio mi perdona oppure no. Perché Dio ha fatto sapere ora che tutti quelli che rifiutano il valore del sacrificio di Cristo permangono sotto l'ira di Dio. Quando Gesù disse che la sua parola sarà quella che giudicherà l'uomo, intendeva proprio questo, cioè che con le sue affermazioni egli ha già reso in grado l'uomo di sapere, ora, che cosa succede dopo la morte. Se crede è salvato, se non crede è già condannato fin d'ora. Il primo giudizio da parte di Dio sull'uomo avviene su questa terra e non in cielo. Se noi crediamo che ci sia un cielo senza averlo visto, se crediamo che ci sia una condanna eterna, perché, lo ha detto Gesù, perché non credere anche che siamo già giudicati mentre viviamo sulla terra? La nostra incredulità non annulla il primo giudizio di Dio. Secondo i progetti di Dio, coloro che pongono una fede salvifica in Cristo sono dichiarati senza colpa, un atto che nella Bibbia viene chiamato giustificazione. Così l'uomo che accetta per fede il piano di Dio, benché peccatore e mancante, può ritenersi giusto, come se non avesse mai commesso una colpa, al punto che l'Apostolo Paolo, nel parlare di questo argomento, può dire: «Candre, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». RM 5.8. Non deve sfuggirci l'espressione «eravamo peccatori» per dire che ora non lo si è più. L'importanza di questa affermazione è ancora più marcata se consideriamo che proviene da chi si è definito il primo dei peccatori. Un messaggio del genere è veramente straordinario, tanto da impedire anche al credente in Cristo di annunziarlo. Se però egli lo annuncia, e anche con un certo vanto, non è perché crede di non essere mancante nei confronti di Dio, ma perché è conscio che Dio ha stabilito un patto nuovo con l'umanità intera mediante il sangue di Cristo, e egli lo ha accettato individualmente. Mentre prima della venuta di Cristo sulla terra, il credente veniva dichiarato giusto, in attesa della morte e resurrezione di Gesù, ora il credente è stato reso giusto perché, mediante la nuova nascita, ha ricevuto la natura divina che appartiene a Cristo, per cui quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1 GV 4.17. Come sempre, questa verità non deve offuscarne un'altra. Cioè che anche per il credente vi sarà un giudizio da parte di Dio. Per comprendere questo occorre tenere presente alcune verità. La prima è che il credente con un atto di fede entra a far parte della Chiesa di Cristo, quella Chiesa che un giorno verrà rapita da Cristo stesso per incontrare Gesù nell'aria, cioè in cielo. Dopodiché Cristo tornerà sulla terra per regnare 1000 anni, e con Lui torneranno anche coloro che hanno posto fede in Lui, cioè la Chiesa, chiamata anche la sua sposa. Zac 14.5. I credenti che saranno stati vittoriosi sul peccato in questa vita regneranno con Cristo per tutti i 1000 anni, e anche chi non è stato vittorioso farà parte del regno di Cristo. Come avverrà questo? Quale sarà il criterio per scegliere alcuni e altri no per regnare sulla terra? Non sono forse tutti salvati quelli che fanno parte della Chiesa? Non sono forse tutti resi giusti? Ci sono forse dei giusti più giusti di altri? Sembra proprio di sì. L'essere resi giusti è un fatto anche giuridico, per cui tutti i credenti posseggono la stessa giustizia, e tutti sono stati resi giusti solamente dal sangue di Cristo. Questo aspetto non deve nascondere, però, un'altra verità: l'essere giustificati e il possedere la vita divina non ci sottrae dall'essere giudicati anche per quello che si è fatto sulla terra. In questo senso vi sono credenti che posseggono la natura divina e si comportano di conseguenza, mentre altri, pur possedendo la stessa vita divina, vivono con la natura corrotta ricevuta dalla nascita e per questo sono meno santi degli altri. Questo aspetto lo dimostra molto bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai credenti di Corinto, credenti che facevano peccati di vario genere. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. 1 Cor 3:1-15. In questo passaggio l'apostolo Paolo sta parlando del tribunale di Cristo per la Chiesa rapita prima del millennio, cioè prima dei 1000 anni nei quali Cristo regnerà con la Chiesa su tutti i regni del mondo. In quell'occasione non sarà messa in discussione la salvezza dei credenti, ma la loro idoneità a regnare sulla terra. Coloro che avranno operato formalmente nel regno di Dio, fatto questo identificato nella paglia, legno fieno, perderanno il premio offerto, mentre chi avrà agito per lo Spirito di Dio, fatto questo identificato nell'oro, argento e pietre preziose, riceverà l'adeguato premio. Così, per chi ha posto fede in Cristo, anche se ha una salvezza certa, vi è una vita piena di attese e di sfide, perché il giudizio del tribunale di Cristo lo aspetta. Un credente che rimane appagato della salvezza e non cerca onore o gloria nel fare il bene, RM 2:7, perderà il frutto delle opere compiute. 1 Giv 1:8. Poi vi è il giudizio delle nazioni che saranno viventi al ritorno di Cristo con la Chiesa. Questo è un evento che si verificherà all'inizio del regno millenniale. Pochi ci hanno fatto caso, ma questo giudizio è profetizzato ovunque nell'Antico Patto, e se non è compreso è solo perché compare in quella porzione della scrittura che si chiama profezia, e come tutte le profezie non sempre può essere capita in modo definitivo e immediato. Dio ha attribuito alle nazioni un ruolo molto importante, usandole come strumenti per portare a termine i suoi piani in merito al suo popolo, Israele, e alle nazioni stesse. Israele come popolo di Dio è stato più volte infedele alla chiamata di essere testimone del vero e unico Dio, e per questo Dio ha mandato vari popoli per renderlo schiavo di altre civiltà, una delle quali è stata l'Assiria, alla quale il profeta Isaia annunciò: «Guai all'Assiria, verga della mia ira! Ha in mano il bastone della mia punizione. Io la mando contro una nazione empia, e la dirigo contro il popolo che ha provocato la mia ira, con l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il fango delle strade». Isso 9:56. Sfugge alla maggioranza delle persone, per il suo ripetersi storico, che una nazione può invadere un'altra nazione per volontà di Dio, perché riceva da parte sua una lezione morale, anche se non sta a noi determinare quando ciò avviene per volontà di Dio. Questo è avvenuto per il popolo di Israele, anche se il popolo meno, come sarebbe stato per ognuno di noi meno, non la intendeva così. Quindi, ciò che succede alle nazioni non deve essere sottovalutato né sopravvalutato, ma neppure ignorato, come se tutto dovesse capitare per caso, quasi che gli eventi della vita non fossero voluti e controllati dai piani imperscrutabili di Dio. Così vi è un giudizio delle nazioni da parte di Dio ancora da compiersi, ma che avverrà di sicuro, come si attueranno per certo gli altri giudizi, anche se questi non saranno percepiti come tali dalle nazioni, ma saranno accolti come eventi casuali, naturali, della storia. Quando si parla di profezie, la differenza tra il credente e l'incredulo è che il credente vi vede un piano perfetto di Dio, come per la nascita di Gesù. Chi delle persone contemporanee ne ha colto il lato profetico? Quale sarà il giudizio di Dio per le nazioni? Perché saranno giudicate? Verrà il tempo, non molto lontano ormai, che gli ebrei, per qualche ragione ancora non molto evidente, ma che si può anche supporre alla luce degli eventi storici, si renderanno odiosi a tutto il mondo. Tale situazione è così descritta dal profeta Zaccaria: «Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Verranno pure contro Giuda quando cingeranno de assedio Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. Zac 12. 2-3. Secondo la parola di Dio, le nazioni straniere calpesteranno la santa città per 3 anni e mezzo. Apocalisse 11.2. 2/3 della popolazione saranno sterminati. Zac 13.8. Questa è la cronaca annunciata dal profeta Zaccaria. Ecco, viene il giorno dell'Eterno. Allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Nonostante questo avvenga per il volere di Dio, le nazioni non rimarranno impunite. Come sta scritto, poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Zac 14, 3-4. Esiste una sola persona che tornerà dal cielo posando i piedi sul Monte degli Ulivi. È Gesù Cristo. E in quel giorno le nazioni saranno giudicate, come è scritto. In quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Zac 12.9. Che le nazioni incredule siano giudicate è più che giusto e conforme alla giustizia di Dio. Perché se Dio ha giudicato severamente il suo popolo, quanto più giudicherà coloro che sono e rimangono increduli. Dopo quel giorno Cristo con la Chiesa regnerà, come sta scritto, l'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Zac 14.9. E per 1000 anni vi sarà quella pace tanto agognata. Infine vi è il giudizio finale del trono bianco, successivo al regno millenniale di Cristo, e che si verificherà dopo che le nazioni avranno assediato di nuovo Gerusalemme e saranno state sconfitte da Cristo. Questo giudizio avverrà per tutti i morti in generale. Così è descritto nella Bibbia. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. App 20.1115. Ciò che colpisce in questa descrizione sono i libri mediante i quali vengono giudicate le persone. Perché proprio dei libri? Perché in virtù delle annotazioni in essi contenute nessuno potrà discolparsi di nulla e riceverà la piena condanna dei suoi errori. Non tutti sanno che, dalla creazione in poi, l'Eterno Dio possiede dei librini quali viene registrato tutto ciò che si fa e si dice. Nessuno verrà giudicato su opinioni o supposizioni, ma sulla base di ciò che è stato annotato. Così, mentre l'Eterno Dio, mediante i libri, non dimentica il bene che compiono i suoi figli, Ebrei 6:10, mentre ogni lacrima giusta di coloro che ha riscattati viene registrata, Salmo 56:8, così gli uomini dovranno rendere conto di ogni parola oziosa, cioè ogni rivelazione della quale non è stato tenuta conto e non portata a fruttare, Metti mezzogiorno e 36. E, interessante notare che la dichiarazione la morte e il luogo dei morti saranno gettati nello stagno di fuoco, manifesta che tali termini non stanno tanto ad indicare come invece si pensa generalmente dei meri concetti filosofici, ma indica degli esseri viventi, ossia il diavolo e gli angeli, la sorte dei quali sarà con tutti i perduti nello stagno di fuoco, il quale è veramente un luogo di fuoco e di dolore. Questo luogo è definito la morte seconda. La prima morte, infatti, è la separazione temporanea da Dio che si sperimenta sulla terra, in questo periodo di spazio e tempo, per la quale tuttavia la risoluzione sta nell'arrendersi a Cristo, mentre, per chi ha scelto in vita di vivere senza Cristo, la stessa separazione avverrà nei tormenti e per l'eternità, ma questa volta senza più possibilità di liberazione. Questa morte quindi la subiranno tutti coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita, cioè coloro che non avranno fatto una scelta positiva nei confronti di Cristo. Il grande trono bianco ci parla della maestà e della santità di colui che vi siede, oltre a comunicare la grande maestà del regno di Cristo. Il giudice sarà Gesù stesso e non il Padre, perché il Padre ha rimesso ogni giudizio al Figlio. GV 5.22.27. Come criterio di giudizio saranno usate le stesse parole espresse da Gesù e riportate per iscritto nella Bibbia. GV 5.45. Mentre a subire il giudizio saranno tutte le persone morte, grandi e piccoli, di ogni paese e di ogni epoca, a eccezione però di due categorie, i membri della Chiesa glorificata e i credenti risorti nella tribolazione prima del millennio. App 24:5. Tutti gli altri uomini compariranno davanti al Tribunale Supremo e le loro opere, come le loro parole, i loro pensieri e ciò che hanno omesso di fare, verranno sottoposti ad un severo giudizio. I segreti dei cuori degli uomini saranno rivelati. Tutto verrà letto nei libri scritti, AP 20.12, e quelli che contesteranno saranno ridotti confusamente al silenzio, GB 9.3, MT 22.12. Il risultato del giudizio che scaturirà da questo tribunale sarà identico per tutti, cioè la separazione da Dio, 2 Te 2.9. Anche se alcuni saranno trattati meno rigorosamente di altri, MT 24.51, 10.15, 11.2123, LC 10.12. Infatti, a chi più è stato dato, più sarà richiesto, LC 12.48. Dio terrà conto di ogni circostanza, della conoscenza e di ogni pressione psicologica. Con il giudizio del Gran Trono Bianco è collegata la seconda resurrezione per distinguerla dalla prima avvenuta ancora prima del millennio. AP 20.5 e 12. Sui partecipanti alla prima resurrezione non ha più potere la morte seconda. AP 20.6. La resurrezione riguarderà il corpo, per cui la sofferenza di essere lontani da Dio non sarà solo spirituale come quella che sperimentano qui, oggi, i perduti, ma anche fisica. In questo modo, la sofferenza sarà totale perché anima, spirito e corpo soffriranno assieme. E con questo ultimo atto si concludono i vari giudizi di Dio. E mentre l'incredulo è disgustoso e verrà svergognato, Proverbi 13.5, chi crede in Cristo come lui stesso ha detto non sarà svergognato, RM 10.11. E questo perché con il nuovo patto stabilito da Gesù nell'ultima cena, durante la quale fu tradito, Matteo 26.28, qualsiasi peccato dell'uomo è per l'eternità dimenticato, Ebrei 10.16-17, e anche perché, come ha dichiarato Cristo, ecco io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Isaia 65.17. Non ho parole, ma un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. 2 Cor 4.17. Gennaio 2010. Ellero.